Prego. Stampa tutto su carta coda? Sì, va bene. Queste le voglio stampate su carta coda. Sì, sì. Buonasera. Buonasera. Undicesima puntata dell'Accademia della Brusca. Oggi è il, non ho nessuna data sotto, il 12 gennaio. Ascanio ormai è andato. Ascanio è andato. Ormai è tardi per mettere Ascanio. Ma non so, noi l'avevamo già messo comunque. Sì, perché noi siamo sempre disposte ad accogliere. Certo. Ad accogliere anche Ascanio, che probabilmente non so quanti di voi l'avranno lasciato fuori, poverino, apritegli, ecco, lasciate entrare Ascanio fuori. Bene, questa... Io sono in silenzio stampa. Perché? Perché quello che diremo oggi per me è troppo importante, non me la sento, non ce la faccio, non riesco a concentrarmi nemmeno. Molto emozionate. Sono molto presa dall'imbarazzo totale, non riesco nemmeno a pronunciare il suo nome, ma quello non sono mai riuscita a farlo comunque. Comunque, un po' come Dewey, quello delle classificazioni. Come Banksy. Banksy va benissimo. Lino Banksy. Lino Bene, cazzate a parte, dillo, ti prego, dillo. Signore e signori, questa sera vi presentiamo il personaggio del secolo, della linguistica e non, della politica, il signor dottor professore emerito di linguistica Noam Chomsky. Che è qui con noi in studio. È qui. Good morning. Noam Chomsky, idolo locale. Sarebbe stupendo. E invece no. No, non c'è. Però la sua veneranda età non può... È vivo e lotta insieme a noi. Esatto. Attenzione. Quindi attenti, perché vi potrebbe fare anche un culo come una casa. Eccoci. Detto ciò, con quale coraggio possiamo affrontare un argomento del genere? Dimmelo. Perché siamo uno dei maggiori riferimenti nazionali della linguistica. Dopo l'Accademia della Bottariga. Esatto. Io ho queste cuffie che mi tappano le orecchie. Sì, ora fa finta ora di avere un sacco di imbarazzi e di problemi per non parlare. No. Allora, io ho bisogno innanzitutto di un amico. Prima di qualsiasi linguista ho bisogno di un amico. Il nostro Santino. Il nostro Santino, quello ufficiale. Quello di... Buongiorno di nuovo, buongiorno e buona giornata, buon inizio di fine, buon inizio di settimana, che di fine settimana. Sveglia a tutte le telespettatrici e buon inizio e fine, no. buona fine, buon inizio. No, evidentemente vabbè. È andata bene così. Come passare dalle stelle alla nostra televisione nazionale popolare. Bene, ma quindi dobbiamo davvero iniziare questo argomento, sì. Non possiamo più tergiversare. Non stiamo qui a gingillare. Cosa diciamo di lui? Che no, cosa fa? Chomsky, diamo una... Oddio, che ci stiamo guardando perché nessuna delle due ha il coraggio. Bene, inizio io. Vai. Professore emerito di linguistica. È un genio su tutti i fronti, sì. Dal punto di vista sociologico, filosofico, linguistico... sociopolitico, anche personale, cioè sarà un sì. Uomo fantastico. Ci fanno dei gesti in regia. Non possiamo tradurre i gesti. Abbiamo l'interprete di lingua dei segni anche quest'oggi che ha detto che è un uomo di grandi. È un gran bell'uomo, è un grandi bel pezzo d'uomo. Perfetto, stiamo già scadendo davvero. Sì, infatti, non possiamo, non possiamo fare altrimenti. Nel fosso della vergogna. Che cosa ha fatto di importante dal punto di vista linguistico? Ovviamente cercheremo di concentrarci sì. Più sul versante linguistico ovviamente. Di Chomsky che non su tutto quello sì. Che magari più o meno forse è più conosciuto come no è conosciuto penso che settore media sia più conosciuto come critico sociopolitico dell'attualità. Sì, probabilmente sì, come linguista sociologo. Forse meno. Nell'ambito linguistico invece è uno dei guru perché è il fondatore della grammatica trasformazionale che viene praticamente tutta la teoria della grammatica generativa è sua. È il re dei re dei sì. Capi della grammatica generativa. E qua ci stava battendo. E qui chi è lo re? Spappari, chi è lo re? No, iniziamo davvero a parlare della teoria della grammatica generativa perché altrimenti non, qui si fa notte. Esatto. I primi elementi essenziali sono già presenti nella prima opera del 1957. Quindi pensate un po'. Syntactic structures. Ricerca tutte le strutture innate del linguaggio naturale. Tutto quel discorso che abbiamo già fatto, penso... varie volte. Sì, lo riprendiamo quasi tutte le puntate perché è il nostro leitmotiv, certo. Se possiamo dirlo. Mi piace quando ti dici piace. Così. Leitmotiv. Dai, continua tu, che te lo cedo. Cosa possiamo dire della grammatica generativa che, come vi abbiamo già ripetuto, ormai avremmo fatto una testa e due orecchie così. Cioè, ricerca le strutture innate del linguaggio naturale. Perché è naturale? Perché il linguaggio è l'elemento distintivo dell'uomo come specie animale. E Chomsky con questa teoria della grammatica generativa è riuscito a superare la concezione della linguistica tradizionale incentrata più sullo studio delle peculiarità dei singoli linguaggi parlati. E il pensiero di Chomsky infatti va al di là di queste regole vecchie, diciamo, di linguistica. Che se non sbaglio erano quelle poi coniate dagli strutturalisti prima di Chomsky sono stati loro e poi è arrivato appunto lui che con il suo pensiero è riuscito a dare un sacco di spunti di riflessione poi anche rubati se così vogliamo dire però insomma che non me ne vogliano gli psicologi, gli evoluzionisti, la neurologia e anche le scienze dell'informazione e appunto con le scienze dell'informazione possiamo attaccare, diciamo, sulla seconda grande peculiarità di Chomsky, cioè per i più è conosciuto come un grande sociologo. In realtà la sua formazione originaria è quella di essere un linguista e un glottologo, però è famoso anche perché? Perché ha preso posizioni storicamente rilevanti dal punto di vista della società. Per esempio, dagli anni 60 ha preso posizione contro la guerra nel Vietnam. Sì. Ha avuto un impegno sociale molto forte. E addirittura Chomsky si è affermato anche come intellettuale socialista libertario e qualcuno dice addirittura anarchico. Sì. Chissà. Ha il pensiero anarchico, secondo me, non ha aderito proprio a quella che è, vabbè, il diktat anarchico, come se così vogliamo dire, però è sicuramente anarchico nelle idee, nei pensieri, tanto da essere riuscito a rivoluzionare completamente la linguistica. Che e bravo, quindi, che bravo. Sì, sì, è sì, proprio sì. Un uomo pieno di charme. È un uomo da sposare, è un uomo molto, molto affascinante, ma di quelli che meriterebbe una bella canzone. Mo sì, mo moglie la mando. Mo mandaci una canzoncina. Qua, che cosa ti mando allora? Sì. Un saluto agli addominali di Morrissey. Questa era Charmed Disarming Man, appunto, degli Smiths, dedicata al nostro caro amico Noam, che chissà se ci starà ascoltando. Ovviamente. Sarà anche un genio dell'informatica ormai, per cui. Sì, di sicuro. Oggi sono personaggi fantastici, sì, come i nostri ospiti. Abbiamo ospiti anche oggi, perché questa radio è un via vai continuo. Che bello! Chi c'è ospite? Vuole farci un salutino? Vuole farci un salutino, signorina, passando dal nostro microfono? Devo far finta di essere qualcun altro? Come vuoi. Ciao, sono Vladimari. Oh no, non dovevo dire il vero nome. Allora no, scherzava, è Mara Venier. È Mara Venier vestita da Maria De Filippi. Quindi immaginate. E ho già detto i miei due personaggi del Toto Decesso 2017. Io ho questi due, Mara Venier e Maria De Filippi. Ovviamente dico, voi, attentissimi ascoltatori di Wombat, saprete cosa sta succedendo, no? Abbiamo aperto. Cosa bolle in pentola. È stato aperto il Toto Morto 2017. Ora, io non voglio dire nulla, quei perché stiamo parlando di un uomo. Fottuti geni. Esatto. Io non voglio dire nulla perché stiamo parlando di un uomo che ha una certa età. Se non sbaglio, no, allora 89 o 92 anni. Mi arrabbio, qui, mi arrabbio. È già morto Bauman. Non me lo toccare. È morto ecco, Giulio De Mauro. Ecco. Mo basta. Ok, ecco, per favore. Ora basta. E, possiamo continuare la nostra digressione ritornando sul tema linguistico. Come possiamo continuare? Per esempio, vediamo un po', perché comunque Chomsky ha scritto, detto un sacco di cose. E Allora, parliamo di quelli che sono i problemi della conoscenza secondo Chomsky. Linguaggio e problemi della conoscenza, i suoi quattro pilastri fondamentali. Quali sono? Cari studenti di linguistica. Su forza. Cosa ha fatto Chomsky in un omonimo libro del 1988, dal titolo, appunto, come si diceva ora, Linguaggio e problema della conoscenza, cari miei? Ha discusso, come diceva Nenia, di quattro quesiti fondamentali. Uno: cosa sappiamo realmente quando siamo in grado di parlare e comprendere una lingua? 2. Come viene acquisita questa conoscenza linguistica? 3. Come la mettiamo in opera? Come la usiamo? E 4. Quali sono poi i meccanismi fisici coinvolti nella rappresentazione, nell'uso, anzi nell'acquisizione prima e nell'uso di questa conoscenza che, ripetiamolo, contraddistingue appunto l'essere umano? E basta, perché pensate quali altri animali sanno parlare come noi, a parte nei cartoni animati. Ecco, Topolino, per esempio. E come la risolve questa Chomsky? Appunto dilungandosi con delle digressioni molto importanti in questo libro, che generalmente viene adottato poi soprattutto dagli studenti di filosofia del linguaggio o di psicologia. E Chomsky sostiene appunto raramente di logopedia. Esatto, e invece sarebbe soprattutto per la parte che parla dell'articolazione della parola, quindi il canale fonatorio, di tutte le caratteristiche che contraddistinguono il canale fonatorio umano, sarebbe fondamentale, e invece no, ma rimane sempre appannaggio soltanto della filosofia. Ma i buoni logopedisti leggono Chomsky, sono sicurissima. Che lo fanno? Sì. Lo leggono di nascosto, vergognandosi nell'angolino, lo sappiamo. No, non lo fanno, io ne sono sicurissima. E i logogenisti lo leggono, Chomsky? Certo, alla grande. Decisamente. Ce l'hanno nel comodino. Ce l'hanno nel comodino, tipo proprio Bibbia per il reverendo. Perché non si deve nemmeno vedere, non si deve sporcare di polvere. Questo è il nostro... Ok. Ma che cos'è per Chomsky la facoltà del linguaggio? Io lo so. Allora, è una caratteristica, come dicevamo, appunto innata della specie umana, che è dotata di principi fondamentali che costituiscono quella che viene detta grammatica universale, che potremo ampliare nella prossima puntata perché è veramente un capitolo a sé. E nella lingua, cosa succede però nella grammatica universale? Che si costituiscono le varie lingue naturali, che sono, facciamo l'esempio di lingua naturale, l'italiano, sì, il cinese, e il fatto... Lingua dei segni slovena. Esatto, vero, perché è un codice a parte. Il body language, sì, anche quello. Ci Beh, non lo so, forse. I principi, secondo Chomsky, della facoltà di linguaggio non vengono mai appresi, ma sono innati. E questo spiega perché e componiamo frasi sintatticamente complesse, siamo in grado di farlo, cambiando per esempio una frase da dichiarativa a interrogativa, senza che nessuno ci abbia mai spiegato come fare a fare appunto questo cambiamento, a traslarlo. Nel senso, linguisticamente siamo creativi, coerenti, tutto ciò che diciamo è sempre appropriato alla situazione, a meno che non ci si ritrovi sbronzi fuori da un pub, ma tutto ciò non ci viene mai insegnato, è innato, quindi si impara, si apprende, perché forse il termine è più adatto, si apprende senza che nessuno ce lo insegni. Okay. Esattamente. Un'altra caratteristica importante è che soltanto noi lo abbiamo. Infatti poi a un certo punto Chomsky scrive un libro, non mi ricordo come si intitola, ma parla dell'extraterrestre che improvvisamente potrebbe arrivare sulla Terra. Posso farlo? Sì. E poi vi spieghiamo che cos'è questo esempio. Posso? Vai. Vivevi in un abbaino per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante: esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto. Diceva extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. Il cielo un po' più viola del normale, un po' più caldo, il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza mista ad una dolce sicurezza, l'universo è la mia fortezza. Extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Perché secondo me era un po' una merda, così, però ci stava troppo bene, non potevo non metterlo. Io volevo rassicurare gli ascoltatori, non siete su RTL 102.5, non siete su RTL. Su Radio Italia. Non siamo, esatto, nessuno di noi è ancora stato commissariato, la direzione della radio non è stata commissariata, nessuno è incriminato che per Dio mafia. Che Dio mai lo voglia. No, però perché? È vero, ci stava, soprattutto perché avevo perso una parte del file e allora mi servivano 4 minuti per ritrovarlo. Come siamo sinceri. Diciamola tutta. La sincerità è importante. Dicevamo la storiella del marziano. Di Chomsky. Allora, siamo, che so, qui a Careggi o a Fiesole, su qualche collina bellissima di Firenze, e arriva una navicella con un bel marziano. Arriva e vuole imparare l'italiano. Che succede? Prima di tutto non parla perché non è umano. Esatto, però... Però è intelligente. Un marziano si è arrivato fino a qui, di sicuro è intelligente. Da Marte sulla Terra, qualcuno dice. Di sicuro sa la matematica e le materie scientifiche in generale. Però non parla nessuna lingua naturale. Bene. comunica in qualche altro modo, fa tutti i versi piuttosto che muove di su in giù a seconda di che cosa deve fare. È un essere pacifico, pacificissimo, e decide di imparare l'italiano. Ma perché? Okay. Il vincolo comunicativo. Una variante italiano fiorentino, non so, l'italiano in generale. Sì, sono immaginato il marziano che parla il fiorentino, mi ha fatto venire i brividi. Ok. Basta andare sotto l'arco di San Pierino per trovarli. Allora arriva in piazza Beccaria, cammina e sente delle frasi e inizia a dire, a imparare delle piccole frasi tipo: l'uomo legge il giornale, perché magari l'ha sentito dire. L'uomo mangia la pizza. Frasi facili, semplici. Sì. L'uomo è caduto, andate ad aiutarlo. Ma addirittura con dei pronomi clitici, fantastico. Esatto. Si accorge poi dopo un pochino che può comunicare con le persone anche facendo delle domande. Per esempio, se chiede come stai, qualcuno gli risponde bene e lui è emozionatissimo. Però inizia un problema. Come si fanno le domande in italiano? Esatto. Ok, allora inizia a dire, ci vorrà questo pronome. Poi leviamo, che ne so, voglio chiedere a qualcuno riguardo al giornale. No, leviamo il giornale, lo dobbiamo sostituire con cosa? E allora dice... l'uomo sta facendo cosa? Va bene, non è male, sono domande che si possono formulare anche così. E poi inizia a dire, quell'uomo legge i turbamenti del funicis... Poppa! Eccolo! D'altronde è sbarcato sulla collina di Careggi, per cui non poteva andare. Sì, quell'uomo legge cose, insomma, inizia a farsi tutta una serie di problemi, come fare le domande, dove mettere gli elementi, se chiedo riguardo all'uomo che fa cosa, dove metto l'elemento cosa, dove metto il pronome, insomma, si fa tutti questi problemi. Stiamo parlando di un essere intelligente, ovviamente, che non parla molto intelligente, naturale. Cioè lui è arrivato fino a qui con una navicella, sa tutto quello che c'è da sapere sulla matematica, tutto, però non sa bene dove mettere questo che cosa. Quindi si dice mangia la pizza, legge il giornale, ma la domanda è che cosa mangia, che cosa legge? Questo noi lo sappiamo, l'abbiamo imparato, lui lo deve apprendere. Secondo te lo apprende subito? Non è detto. Non è detto, ci sono bambini, ci sono persone che in realtà questa cosa ancora non l'hanno ben appresa. Perché non è scontato? Perché noi abbiamo un sistema che nell'albero sintattico, automaticamente la nostra mente è predisposta a prendere quell'elemento e spostarlo da un'altra parte. Lo facciamo, lo fanno i bambini di un anno, lo fanno i bambini di un anno e mezzo, di 9 mesi. I bambini non solo lo fanno, ma lo capiscono ancora prima di saperlo fare, ma nessuno ce l'ha insegnato. Esatto, il cosiddetto shift. Esatto, il marziano lo deve imparare, pensa. Perché? Perché non parla una lingua naturale. Povero. Che sfiga. E quindi cosa fa il marziano? Dai, finisci di raccontarci questa storiella bellissima. Non lo so se ve lo voglio dire subito, ve lo volevo tenere per dopo. Che ne dici? Allora, ascoltiamoci un'altra canzone, intanto riflettete sul perché il marziano non è in grado di sostituire questi elementi come si deve. Io sono il numero zero, facce diffidenti quando passo lo straniero, in sclero, teso vero, vesto scuro, picchio la mia testa contro il muro, sono io l'amico di nessuno e stai sicuro, resto fuori dalla moda e dallo stadio, fuori dai partiti e puoi giurarci io non sono l'italiano medio, ma un cane senza museruola, la NE, la WFA passa parola, Cico canta che ti passa ma non mi passa più, testa bassa, la repressione mi butta giù, schiaccia, quando lo sbirro mi dai pugni nella faccia, per me lo Stato è solo stato di minaccia, quando vedo il tunisino all'angolo che spaccia, la nera presa a schiaffi dal magnaccia, io so che è tutto made in Italy, perciò non chiedermi se canto Forza Italia o no, no, no, no. È la mia posizione, è di straniero nella mia nazione. La mia posizione è di straniero nella mia nazione. lo straniero e lo guardate male. E ogni singolo secondo la tensione sale. E sangue misto e non rispetta più il confine. Viene da dove era stato cacciato fuori come un cane. Ora non ci sto, non ci credo e non ne voglio più. Solo disprezzo per lo Stato e le divise blu. Scrivo come Neffa, a zero grado di fiducia. Quando la terra brucia, allarme rosso per le strade, non sei più sicuro. Tu stavi chiuso in casa ed è crollato il muro, quindi adesso è tutto pronto per lo scontro. Con chi viene da fuori e non ci sta più dentro, quello che mi è andato da quando sono nato l'ho pagato. E ho visto ogni due anni una strage di Stato. È un rompicapo, ma dubbi sui mandanti non ne ho. Sono lo straniero, questo è quel che so. E non è no, è la mia posizione. Quando andavo a scuola da bambino, la gente nella classe mi chiamava marocchino. Terrone, muto, torna un po' da dove sei venuto. E questa è la prima roba che ho imparato in assoluto. La seconda è che sei fatto negli stati in cui ti siedi. Quando sento la pressione dalla testa ai piedi, la situazione per me non cambia, era merda e resta merda. Cani della strada, razza bastarda, alla sbarra, sotto accuse ed ogni giorno c'è un buon motivo. E la giuria ha già detto e il mio verdetto è negativo. Straniero nella mia nazione, perché qualcuno vuol metter fine alle storie di un guaglione. La tensione in strada sale a mille, vivo questa situazione sopra la mia pelle. Giorno dopo giorno, notte dopo notte resto allerta. Guardo le mie spalle, anche se la strada è deserta. Stesso film, stessa storia, ne fa già salvato quindi resta in memoria. E un guaglione mette a fuoco il suo pensiero. Resto fuori perché io sono lo straniero. Non è no, è la mia posizione. E di straniero nella mia nazione. Era bellissimo. Vuoi dirci chi era? No, no. Stasera no, perché lo sanno tutti, ma perché lo sanno tutti, sono i Sangue Misto, lo straniero, da uno degli album più belli della storia dell'hip hop italiano. È tutto lì, l'hip hop italiano è tutto lì. Come potete vedere, questa sera siamo un po' meno trash del solito. Sì, ci siamo un po'. Sì, sì, beh, è una puntata così. Solo il pezzo di chiusura sarà la vera trashata. E ragazzi, pezzo stupendo che dedichiamo a Wendy. Sì. Dedicheremo a Wendy, che è stata in trasmissione con noi per parlarci del vernacolo toscano. Miss Wendy ha fatto una serata il 5 di gennaio, anche senza Ascanio, ma ha messo dei dischi fenomenali. Davvero, davvero. Sì, sì, sì, sì, sì. Devo dire. Va bene, va bene. Ah, va bene, vogliamo va bene. Risolvere questo perché il dove marziano. Era questo problema del marziano? Il marziano, se vi ricordate, Nina. Non è in grado di fare questa domanda. Perché? Dov'è il problema? Allora, abbiamo già visto che la frase, quella che trattava il marziano, consisteva in due... in due elementi, mettiamo. Sì. È una frase che ha un verbo principale. Supponiamo di riprendere un'altra di queste frasi, per esempio l'uomo che legge il giornale mangia la pizza, frase normale che qualsiasi bambino piccolissimo sa comprendere e sa ridire, sa usare in maniera creativa ovviamente. Il marziano applica la sua regolina, qui c'è X, qui un verbo, qui un SN, lo chiamiamo così per sì. Adesso, e applico la seconda regolina. Cosa salta fuori? Che se applichiamo questa seconda regolina, la frase diventa: che cosa l'uomo legge mangia pizza? Ah! che cosa l'uomo legge, mangia, pizza? Chiaramente questa frase è agrammaticale, quindi una frase che non va bene, non che è sbagliata, appunto, e basta, che proprio non va bene grammaticalmente, esatto. non rispetta la regola grammaticale. Esatto, quindi il marziano applica la sua regola, formula questa domanda composta da più elementi e la sbaglia. Perché? La riformula e allora dice, beh, se non è che cosa l'uomo legge mangia pizza, può diventare che cosa mangia la pizza l'uomo che legge. Ah! Avete capito? Queste frasi non sono della lingua italiana e noi lo sappiamo, non c'è bisogno che qualcuno abbia fatto un corso di linguistica o piuttosto che abbia preso la licenza media o le superiori o chissà che. Un contadino nel 1924, che non era probabilmente stato alle scuole elementari, già sapeva che questa frase era sbagliata. Lui sì. Poteva dire che cosa stai dicendo, non fa parte della lingua italiana, non è comprensibile, non vuol dire niente, nonostante io poi singolarmente possa comprendere il significato di mangia, il significato di la pizza, il significato di uomo, per esempio. Esatto, anche di là, semplicemente. Esatto. Se io dico che cosa legge, presuppongo che l'uomo che legge qualcosa ma non so cosa, ok? Questo noi che siamo dei parlanti nativi o comunque che abbiamo facoltà di linguaggio lo sappiamo, esatto. Ma non è scontato che questo sia visibile dal di fuori. Per esempio, per quale X l'uomo che legge X mangia la pizza? Dal punto di vista semantico ha un senso. Sì. Ok, alcune volte, per esempio, il fatto che le frasi siano malformate non ha a che fare proprio con il senso, ma è semplicemente che non hanno una sintassi. E questo poi è il vero problema, perché io potrei anche dire l'uomo che legge il verbesco è molto contento. Verbesco non ha un significato, però lo so inserire in una qualsivoglia struttura e posso dire ok, non so cosa vuol dire, però so che è qualcosa che sicuramente quell'uomo sta leggendo. Esatto, che lo rende contento, per cui ha una conseguenza. pensa che gioia. L'uomo che stiamo mettendo in questione ha un sorriso smagliante, felicissimo di essere coinvolto nei nostri discorsi sicuramente. Ma cosa leggeva quest'uomo? Non mi ricordo più. Meglio. Questa cosa sbarbezebra. Vedete, anche questo ha una motivazione, non siamo riusciti a rintracciare il senso della parola, per cui non ce la ricordiamo. No, comunque leggeva il giornale, nell'esempio leggeva il giornale. Questo povero marziano, quindi, che fa? Sbaglia, si rialza, risbaglia, si rialza, capisce che ha sbagliato, ma lui non sa come risolvere questi problemi. Il linguista lo sa perché ha sbagliato, i bambini sanno cosa ha sbagliato. In sostanza è che la struttura delle lingue naturali non è ordinata nella relazione di precedenza, quindi ci sono delle cose che devono venire messe subito dopo o prima, e questo non ce lo può insegnare nessuno, ragazzi. Esatto, questa è sintassi, ma... ma prima la deve imparare una lingua. Prima deve scatenarsi questa sintassi. Cioè non si può imparare una lingua studiandone le regole. Noi studiamo le regole di una lingua quando la lingua già l'abbiamo completamente o al 95% appresa. Acquisita. Un bambino inizia a studiare la grammatica in, se va bene, seconda, terza elementare. Il bambino ha un mese... riconosce l'assenza o la presenza di un articolo determinativo in una frase. Esattamente. Questo è quanto. E quindi così. La prova di Chomsky dell'extraterrestre per dimostrare che il linguaggio è facoltà innata degli esseri umani. Qui veramente se ne potrebbe parlare per giorni, ma non lo faremo, perché non siamo così cattive. No, lo saremo in futuro, perché vi parleremo sicuramente di questo X barra, sì. dell'albero. Magari anche del propiccolo. Propiccolo programma. No. No, però, allora, cosa vogliamo aggiungere ora, a parte tutto? Direi che forse potrebbe anche essere sufficiente questo. Perfetto. Per l'approccio sì, alla linguistica. Sì, perché poi io di Chomsky vorrei universale. Parlare ancora in futuro, vorrei spulciare qualche suo testo magari. E sarà anche molto divertente, anche perché il web comunque ne è pieno di... Sì. di ma ci sono tantissime fondi. Interviste anche, c'è il film del 2014, adesso ve lo diciamo perché 2016 è uscito da poco mi sembra, allora ve lo diciamo tutti. Subito perché sì è uscito stiamo ovviamente controllando le nostre fonti, 2016. Okay. È uscito, mi pare sia stato presentato in Friuli lo scorso novembre. Sì, perché qualche mese fa lo proiettarono con i sottotitoli, sì. Esatto. Ah, quello è un altro ancora. Ma io parlo di quello adesso. Che, tu dici, allora sì, è un film forse del 2015, uscito alla fine dell'anno scorso, novembre, mi sembra, quello che appunto parla del mondo informatico. Che bello. Avete capito? Bene. E non solo quello, in realtà è uscito anche un altro film di Chomsky che si chiama Requiem for an American Dream, che appunto è un documentario che descrive la nostra società frantumata, individualista e votata, se così vogliamo dire, alla disuguaglianza. Possiamo ricollegarci a un fatto che praticamente, secondo Chomsky, c'è una sorta di link, di collegamento tra linguaggio e il fatto, insomma, di essere, come dire, persone pensanti. Ma vedi, è tutto lì. È tutto lì. La nostra puntata della volta scorsa. Esattamente. È tutto lì, ragazzi. Cioè, Chomsky, ovviamente, siccome viene studiato anche dai filosofi, dai sociologi, tutte queste belle figure, parla anche di morale, cioè praticamente neanche Kant. Allora, dice che la morale, come il linguaggio, è innata e siccome si basa su regole molto semplici, sono comuni a tutti gli esseri umani, la morale, come il linguaggio, è anche universale, quindi facoltà innata dell'essere umano. Di conseguenza, gli uomini sarebbero, è qua il nostro link tra linguistica e sociologia, gli uomini sarebbero nati per essere buoni. Guarda, come Babbo Natale. Esatto, e invece no, quel Babbo Natale bistefani, e chi sono io? Ecco, qui ci stavano. Esatto. Ora lo cerco. In realtà noi non siamo più buoni, siamo completamente schiavi dei nostri bias cognitivi di cui abbiamo parlato la settimana scorsa e delle trasformazioni delle euristiche, quindi di questi ragionamenti estremamente semplificati che siamo in grado di fare proprio perché possediamo un linguaggio. Tiè. E una lingua di conseguenza. Tiè. Pensa. A crusca. Tiè. Ah, quanto siamo brusche. Sì. Ma lo facciamo sentire un pezzettino? Facciamo sentire una canzoncina o un'intervistina? No, sì, io ora voglio un pezzo musicale. Sì, vi voglio il pezzo musicale. Allora, un pezzo dei White Stripes. E poi vi diremo anche il perché. Signs of a girl alone, and tell you everything you need. try to tell her what to do, and all she does is stare at you. The stare is louder than your voice, because truth doesn't make a noise. No, truth doesn't make a noise. Explain it. I feel it often every time I see her face. But the way you treat her, it fills me with rage, and I wanna tear apart the place. Doesn't Make a Noise degli White Stripes. White Stripes che sono collegati a Chomsky perché hanno in comune un regista che è Michel Gondry, che ha fatto il video di questa canzone, è autore di uno dei video della cantante che sentirete nel prossimo pezzo, e al tempo stesso ha fatto anche un bellissimo film, un'animazione bellissima per Chomsky. Dal titolo, se non sbaglio, Is the Man Who Is At All Happy, che vi spiegheremo un po' cosa... Sì, ne parleremo anche di questo in futuro, perché è molto interessante. Interessantissimo, ma non solo. È anche molto bello da vedere, ovviamente. Sì, d'altronde Gondry ha fatto Se mi lasci ti cancello, madonna che brutto titolo che gli hanno dato in italiano. È vero. In inglese era The Eternal Sunshine of a Spotless Mind. E invece, scusa, che c'entrava con Trump? Diccelo, vogliamo sapere. Dopo i mondiali d'Italia, non mi ricordo quando, nel 2006 anno. Forse. Allora, i White Stripes hanno negato il consenso a Trump di usare questo loro pezzo per la campagna elettorale, perché, come diceva Nenia giustamente prima, anche Trump è un tamarro. Quindi voleva questo pezzo. Lo voleva. Cosa c'entra Trump, oltre che con gli White Stripes? Cosa c'entra con Chomsky? Figuratevi se il nostro carissimo Chomsky non ha espresso un'opinione sull'odierno presidente degli Stati Uniti. È un'opinione fresca fresca la freschissima tua. Allora, ha rilasciato un'intervista a questo giornale che si chiama Truth Out, quindi la verità fuori, sulla vittoria. Ottima traduzione. Grazie. Come beh, d'altronde, esatto, sono rimasta in linea con le aspettative. sulla vittoria di Trump e sull'attuale panorama politico degli Stati Uniti. Chomsky descrive, allora, il Partito Democratico, per cui correva Hillary, come l'equivalente dei repubblicani moderati del passato, mentre il Partito Repubblicano, secondo Chomsky, è, attenzione, dedito a portare la razza umana alla distruzione il prima possibile. Secondo Chomsky... Ha sempre ragione. Sì, sì, sì. Ha sempre ragione, non c'è niente da dire. Per cui, insomma, poverino Trump, sono tutti contro di lui. Non c'è niente da dire, non c'è niente da aggiungere, abbiamo un po' azzardato a tirarlo in ballo Chomsky quest'oggi, perché è difficile parlarne. È difficile, una bibliografia estesa, infinita, per cui... È difficile e anche imbarazzante, sì. È difficile perché si rischia di di qualcuno ci fa un altro gesto col braccio qua dietro. Allora mandiamo il pezzo della cantante Che ha a che fare con Michel Gondry, ma ha a che fare anche con Chomsky. Ecco, di questa ha fatto proprio il video Gondry. Lo mandiamo, che dici? Lo mandiamo. Be ready to get confused. ci divertivamo tantissimo a parlare del marziano che arriva in piazza Beccaria. Non posso riportarvi tutto quello che è stato detto, perché non sarebbe carino nei confronti del marziano e di chi sta nelle zone di piazza Beccaria. Però sì, potremmo farci una puntata su, esatto, su quello che potrebbe dire. Il vernacolo è... Che tu ha fatto? E tu sei beige. E tu sei beige, e tu sei verde. Tu fossi stato viola. Chiedo bene perdono al pubblico fiorentino, ma... Allora, abbiamo detto della bibliografia di Chomsky che è infinita, quindi non vi consiglieremo il libro, non vi faremo sentire Pierino, guardate come si riesce a saltare la scaletta con un colpo di cencino. Però perché davvero sono troppe le cose che ha scritto, tantissime, bellissime e soprattutto variegate nell'argomento, proprio nell'appartenenza a una disciplina, a un settore, per cui fate vobis, come direbbe mia madre. Esatto. Quindi basta, sono le 8:30, avevamo giurato puntualità, severità, rigore, disciplina per le regole, rigore sicuramente marziale quello. Sicura, marziane. Rigore marziane. Le arti marziane. Ma la posso dire che nel mio paesello c'è un signore che si chiama Marziano di nome? Che bello. Che ha chiamato di la nome figlia Marziana. Sì, sì. Nome. Non dico come fa di cognome perché il nome è di battesimo. Non ci credo. Sì. Non dico come fa di cognome perché poi scatterebbe l'ilarità generale. Poi non si può magari. No, ma non si può, non si può. Però wow, si chiama Marziano. Pensa. Vabbè. Bene. Vladimari ride perché forse gliel'avevo raccontato questa cosa. Se avrò un figlio si chiamerà Marziano. Abbiamo provato a essere serie, ma non ci siamo riuscite. No, fino in fondo. Abbiamo provato a parlare di qualcosa di veramente importante, ma non ci siamo riuscite fino in fondo perché era troppo. Era troppo per i nostri cuori, era troppo per le nostre anime. Devi mortarci tu, quindi chiudiamo come soltanto noi sappiamo fare, con un e, grande momento di commozione anche, sì, soprattutto quella cerebrale. Ma esatto, va bene, e ora... va bene. E, che dire, ci salutiamo così perché solo così possiamo salutarvi. Esatto. Noi della Brusca salutiamo chi... Chi ci sarà dopo in trasmissione, sì. Naoso, e salutiamo tutti quelli che passano in radio e hanno fatto qualcosa per la radio, e esatto, eccetera, grazie, grazie, eccetera. Esatto, ci trovate sul sito wombat.noblogs.org, su Twitter con Radio Wombat Fi, su Facebook radio-wombat-firenze e soprattutto scriveteci le vostre bellissime, importantissime mail a posta@wombat.net. Andate nella paginina degli eventi, leggete il regolamento per il contest, il logo contest, e partecipate, ne stanno arrivando veramente di molto, molto carini. Molto carini e anche con una discreta mole. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Bene, ciao. Ciao, immaginate con questo pezzo di essere a bordo piscina, cadere e sbattere una tempia. Sarà bene, sarà meglio battere la tempia che ascoltare tutto il pezzo. Se mettete stop fra un pochino noi non ci offendiamo. Ciao, ciao. Ciao. A volte sono un bastardo e a volte un buono, a volte non so neppure come io sono. Mi piace qualunque cosa che è proibita, ma vivo di cose semplici, vivo la vita. Io donne ne ho avute tante che mi hanno capito e altre che in malafede mi hanno ferito. Ma è arrivato giusto per me il momento per dire come io sono, come io sento. Ti dirò, impresto l'anima o il cuore, sono un pirata ed un signore, più amor proprio che pudore. Ti dirò, amo la luna e amo il sole, sono un pirata ed un signore, anziano ed un signore. Ciao, ciao, Rischi. C'è chi mi dice adesso che son più buono, e laddove condannavo oggi perdono. Non vado a un appuntamento senza un fiore, ma non confondo il sesso con l'amore. Non vado a un appuntamento senza un fiore, ma non confondo il sesso con l'amore. Ti dirò, impresto l'anima o il cuore, sono un pirata ed un signore, più amor proprio che pudore. Ti dirò, amo la luna e amo il sole, sono un pirata ed un signore, professionista nell'amore. Ti dirò, impresto l'anima o il cuore.